anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è Tonight Alive, questa era la sigla ovviamente di apertura. Almeno mi sono già levato il dente, non è Tonight Alive ma Basement Records, come sempre un grande classico delle mie trasmissioni, confondere una con l'altra. Questa era Build Me Up Buttercup dei Foundation, quella che ormai è da un po' di tempo la sigla di Basement Records, e sono lieto di annunciarvi stasera, questo sabato sera, un ospite che ormai attendevo da tempo e finalmente è qui accanto a me nella tana del Wombat. Stasera, questo sabato sera, qui insieme a me a mettere i vinili sopra il giradischi del Wombat c'è Federico di Ursuoni, che ha portato il suo carico vinilico per esplorarlo qua stasera insieme a voi. Ciao, buonasera. Ciao. Buonasera Fede. E grazie dell'invito. Ci mancherebbe, anzi, un grandissimo piacere. Prima di iniziare però con la selezione di dischi di Federico, ricordo come sempre i contatti per mettervi qui in contatto con noi di Radio Wombat. Il sito è sempre radiowombat.net, la nostra frequenza in onde medie, in onde mediocri, come amiamo chiamarle amichevolmente noi qua del giro di Radio Wombat, è sempre 1359-1359 per la zona limitrofa di Firenze, e a quanto pare stiamo anche sconfinando nella vicina provincia di Prato, e c'è chi addirittura dice inizia a sentirci anche da Pistoia, dai primi comuni della provincia pistoiese, quindi a quanto pare l'area metropolitana fiorentina, a quanto pare l'antenna del Wombat continua a macinare terreno, e i nostri tra un po' arriverete ai livelli di Radio Maria. Oh, speriamo che ci sentiranno anche da dentro i frigoriferi, da dentro il frigo, dai bunker antiatomici, da dentro i grandi fassi montani delle Alpi e dalle televisioni, se sei vicino anche a una loro antenna. I nostri canali la nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net. I nostri canali social sono sempre su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombatfirenze. Però appunto dopo questa consueta introduzione agli indirizzi della radio, partiamo qua con la selezione vinilica di Federico. Vedo già qui pronto sul piatto il primo vinile, direi un vinile di una storica cantante italiana. Un po' mi hai stupito per questa prima selezione. Magari non l'avrei detto, l'avresti portata per prima. C'è una storia, io come ti accennavo prima, dovendomi limitare a 10 dischi, andavo nel panico, perché quando poi parto per la tangente, soprattutto se parla di musica, mi piace, certo, e non mi fermerei più. Per cui ho cercato di applicare un criterio che permettesse una selezione, diciamo, limitata. Quindi se io avessi dovuto semplicemente scegliere i dischi della mia collezione che mi piacciono di più, non avrei saputo cosa prendere. Per cui ho detto... Sarebbe stata troppo ampia lo spettro. Sì, esatto. ci sarebbe voluto molto più tempo della trasmissione. No, svariate trasmissioni. Svariate puntate, svariate puntate. Bravo. E quindi come criterio di scelta ho applicato un criterio assolutamente emotivo e personale, nel senso che ogni disco che poi ho portato questa sera è un disco che si riferisce a una persona della mia vita. Cioè, in un certo senso, se attraverso la musica si può raccontare se stessi, questo è il mio modo. Per cui questo disco qui fa parte della collezione di dischi di mia mamma, che è venuta a mancare molti anni fa, nel 2005, e quando, cioè non solo lei in realtà, diciamo, ora breve parentesi triste, la mia famiglia da parte di madre nell'arco di pochissimi anni si è completamente estinta, perché mia mamma è morta nel 2005, l'anno dopo suo fratello, l'anno dopo suo padre e 3 anni dopo mia nonna, sua madre, poi sono rimasto solo io. E quando appunto alla fine è morta anche mia nonna, quindi l'ultima rimasta, sono andato nella casa dei miei nonni a rimettere, riprendere un po' in mano le fila, no, di tutta la faccenda. I ricordi di famiglia. Esatto, e ho trovato questa collezione di dischi di mia mamma, che sono tantissimi dischi, c'era anche tipo le Zeppelin 3, qualcosa, però erano molti dischi di musica italiana. Penso che appunto, essendo in casa dei miei nonni, era... i dischi che lei comprava proprio da ascoltare in casa, sì, no, da ascoltare in casa prima di lei. Questo è la mia famiglia da parte di mamma è di Assisi, questa era una casa quindi ad Assisi, e quindi erano i dischi secondo me pre-università, perché poi lei si è trasferita a Firenze a studiare, e quindi sono proprio i dischi di lei adolescente, credo, certo, di poter dire. E ho trovato tra anche perché questi... vedo anno 1974, esatto, quindi come dire incastra, e niente, ho trovato questi dischi, tra questi questo disco di Mio Martini che ho scoperto, non conoscevo, cioè pochissimo di Mio Martini, quelle famosissime, Almeno tu nell'universo, sì, eccetera. Questo è un disco precedente, degli anni 70, e ho scoperto che è un disco meraviglioso, è veramente bellissimo. Ma è stata una grandissima artista, sicuramente, infatti, nel panorama pop italiano, con più che altro viene ricordata appunto per la sfortuna appunto della sua carriera, al di là della fine, ma appunto poi quando entrò in quel circolo di depressione, anche perché poi per tutte le voci che giravano nello show business, esatto. Ed è curioso pensare, tra l'altro, il tipo di donna che era Mia Martini rispetto al tipo di donna che era la sorella di Mia Martini. Esatto, cioè proprio gli opposti. Esatto, gli opposti. Comunque, insomma, io ho scoperto così, un po' per caso, questo è veramente un vinile di recupero. Vero. Un disco meraviglioso. Il vero spirito di Tonight Alive, infatti, è stato perfetto per cominciare questo. E allora andiamoci ad ascoltare Mia Martini, e questa è Inno del 1974, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Canterò se vuoi, ma non credermi. Stelle nelle tasche più non ho, e tu non sai volare più in alto, nel viso della sera che nasce sulla spiaggia coi falò. Canterò per noi che non siamo più forti di quel po' di gioventù, oh, che sta un dentro e poi finirà nel viso della sera che nasce sulla spiaggia coi falò. Dimmi che vuoi, che puoi darmi felicità, e sotto la mia pelle nascerà. I'm via. Rosso, stai salendo sempre più. Lui sta dormendo, il mare sa quanto amore mi ha dato e mi darà, rubando il viso di una sera. E questa era Mia Martini con Inno, il primo vinile di stasera della collezione di Federico. Bellissimo pezzo di Mia Martini. E vedo che hai voluto proseguire con la tradizione italiana per il prossimo disco. Infatti ti dicevo appunto stupendomi, perché proseguiamo su questa via. E l'altra, sempre un'artista donna italiana, questa volta è il turno di Gianna Nannini. Esatto. Tu giustamente ti stupisci, perché noi veniamo da una generazione di punk rocker che siamo, insomma, tutti molto esterofili negli ascolti, ma è normale che sia così, perché la musica, diciamo, che è stata poi la prima musica mia dell'adolescenza, era, insomma, veniva principalmente da fonti internazionali. Però, per l'appunto, sono stati, li ho riscoperti tramite i miei poi gli artisti italiani, il valore degli artisti italiani. Quindi, io ad esempio nel crescere mi sono accorto che quando partiva una canzone casuale di Antonello Venditti, io sapevo le parole. Perché fondamentalmente mia mamma, grandissima appassionata e fan di Antonello Venditti, quando non metteva musica a mio babbo, che solitamente la metteva lui, ma quando faceva le pulizie mia madre giustamente metteva che cosa lei, cavolo, cioè... gli pareva a lei, grandissima fan di Antonello Venditti. E io poi nel crescere mi sono accorto che sapevo le parole delle canzoni di Antonello Venditti. Ma Venditti è un altro grande, cioè nel senso, ci sono quei dischi anni 70-80 di Venditti che sono incredibili. Soprattutto quelli della fine degli anni 70, quando tra l'altro faceva parte del movimento, cioè era nella nuova scuola dei cantautori, del cantautorato romano, era comunque... come al tempo quasi tutti, un cantautore molto impegnato. Certo. Ma ti dirò che a me mi piacciono moltissimo i dischi di fine 70, ma forse quasi di più quelli degli anni 80, 80, quelli un po' tamarri, sì, quando comincia a avere quella produzione più elettronica. Che era già... Quando già si era... Tipo Giulio Cesare. Sì, che si era già andato... Comunque... stava già facendo quella transizione al pop più mainstream, più di classifica, la fase centrale della sua carriera. Però al di là di questa divagazione su Venditti... Parlando della Nannini, questo vinile è un altro vinile di recupero, nel senso che viene invece dalla collezione di mio padre, che io qualche anno fa gli ho saccheggiato, perché... c'è una premessa importante da fare. Questa è una trasmissione sui vinili. Io in realtà ho cominciato ad ascoltare i vinili relativamente tardi nella mia vita, nel senso che il mio primo impianto... Sei anche te della generazione dei CD? Io sono della generazione CD e poco prima anche cassette. Cioè, diciamo infatti. Che la mia adolescenza ha coinciso tra la fine della cassetta e l'inizio del CD. Uguale, infatti siamo coetanei, quindi torna. I vinili erano, cioè per, per tutti noi, immagino, erano i dischi dei genitori. Sì. Ora, però, essendo i miei separati, ed essendo che alla fine il giradischi se l'era preso mio babbo, che poi è andato a vivere a Bari, io non ce l'avevo né il giradischi né i vinili dei genitori a casa, per cui ho recuperato il supporto quando ho comprato io, con il mio primo lavoro serio, il giradischi, l'impianto, amplificatore, diffusori, eccetera, eccetera. Quando ancora c'era il concetto dell'hi-fi, appunto, era quello, sì, che stavamo dicendo fuori onda. Vabbè, ma però prima di questo, cioè prima di avere effettivamente un impianto che mi permettesse di ascoltarli, io per varie peripezie sono entrato in possesso di vinili, solo che li sentivo poi da mio babbo. Dopo ce n'è uno che ti racconterò che è abbastanza iconico da questo punto di vista nella mia storia familiare. Comunque, mio babbo aveva una fruizione, cioè come tutti gli adulti, penso, della loro generazione, per la maggior parte, una fruizione della musica meno da fissati di quanto possiamo poi avere ce noi. L'abbiamo avuta noi. Per cui lui aveva tutta una serie di dischi che, come dire, mi ha ceduto senza... A cuor leggero. Sì, a cuor leggero. E da lui arriva questo disco qui, che io ricordo, peraltro, questo è un best of della Nannini. Io ricordo proprio la musica di Gianna Nannini che noi ascoltavamo quando con mio babbo andavamo in macchina, facevamo i viaggi. Lui c'aveva queste cassette di Gianna Nannini e in particolare ricordo molto bene il pezzo che noi andremo a sentire, che è Bello Impossibile, che esce nell'86. Io avevo 5 anni nell'86 ed è uno dei primi pezzi della radio che io mi ricordo. Cioè, in quel momento il successo fu una hit gigantesca. E io mi ricordo, cioè i miei ricordi proprio dell'asilo, e cantavamo con i bambini Bello Impossibile. Cioè, era proprio un successone del momento. Sì, sì. Ora, al di là del successone pop, la Nannini per me è una grandissima, e la produzione sua dei, diciamo, primi anni 80 è qualcosa, secondo me, di ancora, cioè, mai più accaduto nella musica italiana, perché è pop fatto benissimo, ma anche molto prodotta alla grande, prodotta, certo, in maniera molto moderna. Lei, dopo, penso, il primo disco, California, praticamente andò in Germania e lei era prodotta da Conny Plank, che è quello, cioè il produttore dei Kraftwerk. E non solo, anche di tantissimi altri gruppi krautrock. Esatto, e non, ti dirò, ora non so se su Bello Impossibile è lui, però... Era un po' il deus ex machina dello studio di registrazione per il krautrock. Esatto, quindi non so se oltretutto su Bello Impossibile alla batteria c'è lui, ma su diversi pezzi di quel periodo suona la batteria Jackie Liebezeit, che era il batterista dei Can. Quindi, cioè, roba, non so, impensabile, non sono figure che accosteresti. Assolutamente no. Tanto che quando morì Jackie Liebezeit, pochi anni fa, un paio di anni fa, sì, ci fu un tributo organizzato dal suo ensemble di percussionisti, a cui si era dedicato gli ultimi anni della sua vita, fecero organizzare un tributo con tutti i personaggi che erano entrati in contatto con lui, che erano stati influenzati dalla musica dei Can, c'era, per dire, Ja Wobble, sì, gente così, e c'era anche la Nannini, che peraltro in Germania è conosciutissima proprio per questo. Sì, per essere stata... connessione. Però appunto è pop molto, molto, cioè ben fatto e con dei suoni elettronici moderni per il periodo in cui è stata appunto, erano a fianco a lei due mostri sacri, direi, nell'ambito. E appunto andiamoci a riascoltare questo grandissimo successo del 1986 di Gianna Nannini, e questo è Bello e Impossibile, qui a Basement Records, Radio Wombat, e dove se no. Girano le irraggiungibile. Con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale, non conosco la ragione che mi spiegherà. Io non voglio più salvare dalla libertà una forza che mi chiama sotto la città. E se vuole batto fuori, non si fermerà. Questa è la verità. C'è una luce che mi invade, non posso più dormire. Con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello impossibile. Con gli occhi neri il tuo sapore medio orientale. Bello, bello incredibile. Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Gira stelle nella notte, ti penso forte, forte, forte, ti vorrei, sì. Vedremo, vedremo se avremo parlato sopra e se ci avrete sentito, tanto non abbiamo detto niente di così estremamente compromettente. Niente sconveniente. Questo era il pezzo successivo della Gianna, che tanto ci eravamo persi in chiacchiere, e vedo che continuiamo su questa linea anche sul con pop spinto, sì, pop spinto un altro ricordo d'infanzia. Questo è Madonna, la colonna sonora stavolta di, internazionale. Sì, la colonna sonora di un film che si chiama Who's That Girl, che poi non abbiamo cercato in italiano come sì, facesse. Sì, sono abbastanza convinto che sia stato ritradotto con uno di quei nomi che non c'entrano in realtà niente con il titolo originale. E questo è un disco che allora, anzitutto ricordo l'infanzia, perché io questo film me lo ricordo. Anche questo uscì, diciamo, metà fine anni 80, quando Madonna era, insomma, era esplosa, appena esplosa. Ormai era, sì, sì. Come succede sempre in questi casi, oltre alla cantante poi cominciava a fare cinema. Sì, fece, ha fatto un po' di tutto. Cerca di Susan disperatamente. Sì. E poi fece questo film che io ricordo non essere nemmeno male, se devo essere sincero. Qui in copertina vediamo Madonna nello splendore dei suoi 20 anni, con i sopracciglioni ancora, il capello biondo, platinato e cotonato, dove lei faceva una ragazza punk che poi di cui si innamorava un tipo invece dell'alta società, che poi mandava a fanculo il suo matrimonio per stare con lei. Non me lo ricordo. Comunque, questo è un disco che io diciamo ci tengo molto per due motivi. Punto primo è lo dedico un po' a mio fratello più grande, che quando erano, io ero adolescente alla fine degli anni 90, mi faceva tutte queste cassette che si chiamavano anni 80 volume 1, 2, 3, che erano dei gran mix di musica anni 80, perché io sono sempre stato un nostalgico degli anni 80 già dagli anni 80 praticamente. Invece era la musica di quando ero proprio bambino, quindi è quella musica che ti ricordi, ma che non hai veramente di cui non hai veramente usufruito, quindi era un modo per recuperare già all'epoca dei ricordi. Invece io ho avuto il processo inverso. Io inizialmente ho odiato per un sacco di anni la musica anni 80, per poi riscoprirla e amarla profondamente solo con il crescere, solo in età adulta, diciamo, perché fino a un'età adolescenziale ero convinto che la musica anni 80 fosse fondamentalmente, ora non voglio dire merda, ma insomma ero convinto che non mi piacesse, ma proprio per una questione di principio. Certo, no, ma ti dirò che invece, io nutro una grande affezione nei confronti di tutto quello che è uscito negli anni 80, ma oltre a questo è musica, il pop anni 80 è dove veramente comincia a imporsi l'attenzione diciamo a una buona produzione, cioè tantissimi tecnici del suono sono fissati con gli anni, con il suono degli anni 80, perché effettivamente sono dischi che suonano molto bene, sono super prodotti, ma tra l'altro ti dirò che un altro motivo per cui questo disco per me è importante è il seguente. Come ti ho detto, io l'impianto per ascoltare i vinili l'ho comprato in relativamente tarda età, ero già insomma fine 20, inizio 30, qualcosa del genere. E uno dei primi dischi che diciamo comprai così un po' a casa, un mercatino, sai, di quelli in Piazza Santo Spirito, fu questo disco qui, che poi diciamo io andai a casa, lo misi sul piatto e rimasi basito da quanto cazzo suonava bene. Cioè mi ricordo addirittura, messaggiai un mio amico, ho detto: "Vieni a sentire il mio disco di Madonna, come suona, una bomba." Perché, come dire, un impianto serio. Io prima di allora avevo avuto quei cazzo di combo di merda, sì, che c'hanno il CD sopra, sì, la cassetta. Sì. Cioè, voglio dire, puoi apprezzare relativamente un disco in quel modo lì. In questo modo io lì mi sono reso conto, come il suono, come si apriva, tutti i particolari. La grana, il calore, la definizione del vinile. Pazzesco, per cui... Più che la definizione è il calore e il colore, direi, appunto, del vinile. La definizione... Ma per me è molto anche la spazializzazione, cioè altri supporti. Ora io non potremmo aprire qui una diatriba su cosa sia meglio, qual è il supporto più fedele, no. Però, l'eterna diatriba, direi. Però diciamo che soprattutto... Ora c'è anche il ritorno delle cassette. Sì, vabbè, non apriamo questo discorso. Appunto, diciamo che musica sentita su supporti un po' così non te ne rendi conto. Io quello che ho apprezzato di vinili prodotti in un certo momento del tempo... è stato questa spazializzazione, cioè il fatto che il suono te lo senti improvvisamente a 360 gradi invece come qualcosa in cui che tutto arriva è sparato frontale, cioè, capito? E questo, insomma, per me è stata una bella svolta interessante. Ci credo, certo. E appunto, allora adesso andiamoci ad ascoltare questa Who's That Girl di Madonna, sempre qui a Tonight Alive, che poi è Basement Records, sempre su Radio Wombat. Questa era Who's That Girl di Madonna, che dicevo appunto a Federico in fuori onda, che ricorda tantissimo il periodo di La Isla Bonita, appunto il periodo Latin di Madonna. Forse era quando, tra l'altro, si era appena spostata a New York. Ora andrebbe ricontrollato la biografia di Madonna per essere certi di questa affermazione. Però se non ricordo male, era quando poi appunto il periodo in cui si era trasferita definitivamente a New York. E frequentava, tra l'altro, ora questo in un periodo, subito all'inizio degli anni Ottanta, aveva frequentato anche molto la scena disco newyorkese, appunto. Ma anche punk, eh? Anche bazzicava anche da quelle parti, tant'è che cercasi Susan. Ah sì, lei fa la parte di una punk, no, sì, poi è vero. Uno dei protagonisti maschili è Richard Hell, che è uno del punk newyorkese. Assolutamente. Dei Voivods? Dei Voivods. No, cioè, scusami, Voidoids, Voivods sono un'altra cosa. Sì, sì, è vero, è vero. Mi confondo sempre, tra l'altro. Sì, sì. E finalmente vedo che mi stai incanalando verso... Ci dovevamo arrivare, ora. Questa era l'infanzia, adesso passiamo all'adolescenza. All'adolescenza. Questo disco... Vabbè, allora... Chiaramente io, come chissà quante altre persone, durante l'adolescenza ho scoperto il punk. I miei 13 anni hanno combaciato con l'uscita di Dookie dei Green Day, Smash degli Offspring. Sto dicendo i nomi? No? Offspring. Punk in Drublic dei NoFX e via dicendo. Quindi 94 è il vero the year that punk broke, è stato il 94 più che il 91, secondo me. Pop punk, come cazzo lo vogliamo chiamare, però è stato l'anno che ha riacceso l'interesse per quel tipo di musica, per cui io da lì poi ho scoperto i grandi classici del settore, quindi Sex Pistols, Nevermind the Bollocks e tutti i dischi dei Ramones. E in particolare il mio guru da questo punto di vista all'epoca era il mio amico Luca, che era la controfigura di Sid Vicious, andava in giro col lucchetto al collo, insomma, in quel momento lì era la persona più punk che io abbia mai conosciuto. E mi ricordo che giravano un sacco di cassettine, dei Ramones doppiate, che mi spacciava lui. E in particolare, nonostante i primi tre dischi loro siano dei super classici, non so perché, ma giravano molti dischi di fine anni 80, primi anni 90 dei Ramones, che sono una fase un po' più decadente, nel senso che cominciavano a essere prodotti in maniera, cioè in maniera da rock da stadio, no? Tra l'altro Phil Spector andò a produrre. Sì, ora questo disco qui, Brain Drain dell'89, è prodotto da Bill Laswell, che è insomma, quello di Material, eccetera, esatto, eccetera. Cominciano a esserci turnisti Bill Laswell, già, siamo già in ambito, direi, parecchio vicino al jazz, Laswell. Però ecco, diciamo, un produttore di grido che gli dà un suono molto più corposo. Il basso su questo disco in realtà non lo suona Didi Ramone, che era troppo fatto e non ce la faceva, lo suona un turnista. I pezzi sono scritti insieme a Daniel Ray, che era un songwriter professionista, quindi... Comincia negli anni Ottanta, loro diventano un gruppo rock grosso, cioè nel senso, quanto grossi siano mai stati i Ramones, però insomma, no, a livello di riscontro commerciale hanno tirato avanti più che bene, però non so se sono diventati miliardari come altri. Non so. Vabbè, rimaniamo nei due. Comunque sia, spero per loro di sì. Erano una macchina... che andava, e quindi avevano tutto un entourage di gente che lavorava con loro. Quindi questo disco si lega sicuramente a quel periodo lì, ma è anche importante, anzi direi che è soprattutto, in particolare questo manufatto fisico è importante per un altro motivo, ovvero che è stato il primo regalo per il mio compleanno che mi ha fatto la donna che poi è diventata mia moglie. Ah. Questo perché... diciamo il giorno che noi la prima volta che è venuta a casa mia, il primo incontro mettiamola così, è stato all'insegna del film Pezzi Materi, perché io dal punto di vista mio, molto coraggiosamente, molto spavaldamente, le ho detto, dopo esserci visti tipo 3 volte in giro, gli ho detto: ma perché non vieni a vedere un film a casa mia? E lei ha detto: certo, vengo, però il film lo scelgo io. Ho detto: ok, vai, vediamo Pezzi Materi. Io già lì dovevo accorgermi che era la donna nella mia vita. Poi il film non l'abbiamo visto, naturalmente, però cioè, non l'abbiamo iniziato, ma insomma. Però ecco, è diventato, sai quando si dice la nostra canzone? Ecco, la nostra canzone è Pezzi Materi, per cui beh, ascoltiamoci. Per forza. Questi sono i Ramones, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat, e dove se no. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are clicking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something in red. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried. Beh, che dire di questo, che dire oltre di questo grandissimo classico. Uno veramente dei brani più iconici del punk rock, lo definirei. E vedo già pronto appunto sull'altro piatto del giradischi un'altra cosa che, come ti dicevo fuori onda, mi stavo aspettando che tu mi portassi. E abbiamo partito siamo partiti, ma come cazzo parlo? Siamo partiti soft, ma adesso vi beccate le fiocinate. giustamente, e qui sul piatto ci sono gli Slayer. Gli Slayer, perché per me, sempre in periodo adolescenziale, immediatamente dopo il punk rock, è venuta la scoperta del metal, e in particolare del thrash metal, perché è la forma di metal che forse è più simile al punk hardcore, insomma. E questo disco è stata la mia introduzione agli Slayer, nel senso che mi trovavo per l'appunto a casa del mio amico Luca, la suddetta controfigura Suddetto di Sid funk. Vicious, e a un certo punto arriva un suo cugino che dava via dei vinili suoi che aveva in cantina e che non ascoltava. Perché ora sembra assurdo, ma veramente alla fine degli anni 90 i vinili non se li inculava nessuno, per cui Assolutamente, assolutamente no. erano lì nelle cantine a prendere la muffa. Quindi lui li buttava via e ha detto: "Li volete?" C'era un po' di roba punk, un po' di roba metal. Lui all'epoca era un punk duro e puro e quindi doveva, per le strane dinamiche che c'erano da questo punto di vista, scagare il metal. Poi in realtà è un grandissimo fan degli Iron Maiden, però vabbè. In quel momento doveva scagare il metal, per cui mi disse: "Guarda, tu vuoi qualcosa?" Non lo voglio più vedere, te lo do a te. No, io mi accaparrai questo, mi accaparrai un disco degli Exploited e uno dei Gangrene. E niente, io però mi procuro sto Una vinile. discreta presa Sì, sì, comunque. sì, sì. No, è incredibile, i chiappi che si fanno. Mi procuro sto vinile e però non lo potevo ascoltare perché ancora io vivevo da mia mamma, cioè non avevamo. Per cui cosa succede? Che questo vinile, insieme agli altri, lo prendo e lo porto, quando vado a trovare mio padre giù in Puglia, lo porto e lo lascio a casa sua. E io me lo sentivo solo ed esclusivamente quando Ovviamente. andavo a trovare mio padre a casa sua. E lui ancora se lo ricorda, perché io gli sparavo sti Slayer all'ora di pranzo e lui diceva: "Io, a me mi andava tutto di traverso perché mi mettevi sta roba urlata e per me era un trauma." Anche se comunque lui mi ha detto: "Comunque, alla fine i riff sono un po' una rielaborazione di quello che hanno fatto i Creedence Clearwater Revival, no?" Cioè, perché per mio padre i Creedence Clearwater Revival sono il top del top, cioè, nel Sì, senso, sì, da lì sì. non ci siamo più mossi. Sì. Più o meno qualunque cosa che è basata su un riff di chitarra Già, è una dei Creedence, rielaborazione di quello. però è un messa come un complimento, perché è come messa come pietra di paragone, Sì. insomma. Quindi già se ti diceva mi ricordano i Creedence, era già una questione assolutamente, era Sì. una cosa positiva, ecco. In un certo senso, vediamola così. Tra l'altro, come notavi tu, questa deve essere un'edizione molto vecchia, cioè proprio di probabilmente. Vedo 88. Sì, perché è a marchio Def Jam, Def che Jam. era l'etichetta di Rick Rubin, e Russell Simmons. Che faceva soprattutto, Esatto. anzi quasi esclusivamente, rap, e in più gli Slayer E fa e Danzig. Gli Slayer e Danzig, che Danzig. erano le scelte di Rick Infatti, Rubin. la Però Def le edizioni Jam. successive, lui si è staccato da Russell Simon e ha fondato la Def American, quindi le ristampe sarebbero a nome Def Def American. America. Questo è proprio Infatti la Def Jam è più che altro famosa per l'esplosione Run-DMC, quella roba lì. dell'hip hop. Però vedo che è segnato anche sulla Geffen Records, Era perché distribuito da Geffen, sì. Sì, era distribuito dalla Geffen, sì. che poi appunto in quel periodo si stava accaparrando tutto quello che riguardava un po' la musica più dura, ecco. C'erano i Guns N' Roses, poi Nirvana, tutti Geffen. Forse anche i Sonic Youth. Forse anche Sonic Youth e Nirvana di Nirvana sicuro. sicuramente, sì. Nirvana sicuro. E allora andiamoci ad ascoltare questa South of Heaven degli Slayer, e andiamoci ad ascoltare un po' cosa facevi sentire a tuo padre all'ora di pranzo. E questa ovviamente è sempre Basement Records qui su Radio Wombat. Thank you. Ma pensavo, ah, ma perché pensavo che il feedback di chiusura poi chiudesse. No, no, era proprio come il l'aggancio al pezzo era, dopo. Sì. La partenza del pezzo dopo, pensavo finisse proprio mozzando il feedback. Infatti volevo far sentire tutta l'armonizzazione del feedback, ma poi siamo sconfinati nella traccia successiva, che sarebbe trattato di Silent Scream, tra l'altro. Discone anche questo della Madonna. E vabbè, a proposito di disconi, vedo già il centrino del vinile successivo, e ci vedo un altro nome molto altisonante scritto sopra, ovvero l'acronimo di PIL, di Public Image Limited, il grande progetto post Sex Pistol di quello che era Johnny. Di Johnny Rotten, che non era più in questo caso Johnny Rotten, ma era già ritornato John Lydon. E anche questo gruppo veramente un emblema degli anni 80 e di tutto il filone post-punk che ne è seguito poi subito dopo. Raccontaci un po' di come mai hai selezionato questo concerto francese, tra l'altro. Allora, mi dicevi, allora, c'è dei una PIL. Ragione per il gruppo, una ragione per il disco in particolare. I PIL sono rappresentativi di tutto il filone del post-punk, che è stato poi, diciamo, nel periodo immediatamente successivo all'adolescenza, per me è stato probabilmente la musica che ha avuto più impatto su di me, sia da ascoltatore che da musicista, perché è stata la musica che mi ha aperto a un sacco di altre musiche, essendo che è una musica basata sulla contaminazione del punk con altri generi. Assolutamente, infatti, come amo sempre ribadire, quel suffisso post da adito veramente a dire tutto e niente, perché qualunque cosa può essere post. Infatti, esatto, nella grande marea post punk trovi veramente nelle varie produzioni trovi i suoni più disparati. È così. Credo che sia proprio una delle caratteristiche e delle caratteristiche migliori, appunto, del post-punk, perché ci trovi dentro di tutto e di più con il piglio del punk. Sì, secondo me c'è da riflettere anche su questo, che la gente pensa che quel post stia per, diciamo, la versione intellettuale del punk, la versione arty del punk. In realtà no. è un post proprio temporale, cioè sì, sì, certo. Tutto quello che è avvenuto dopo il punk. Il punk ha aperto la via e ha detto a un sacco di gente si può fare, però poi ognuno ha fatto quello che era più consono, più incline, insomma, alle sue inclinazioni musicali. Un suono unico post-punk tu non ce l'hai. Assolutamente no, credo che sia come tutti i generi, appunto, con quel suffisso, con quel post, appunto, ti apre, perché vuol dire un po' tutto e niente, ecco, ti lascia la porta aperta a tantissime interpretazioni e a strade diverse. E in questo caso, appunto, nel gruppo originario dei Phil c'era un grandissimo bassista che nominavamo prima, Yao Wobble. Un grandissimo chitarrista anche che era Keith Levine. Tra l'altro. E in questo caso anche un grandissimo batterista, che ora però mi sfugge il nome, non è quello, diciamo, è quello dal secondo / terzo disco in poi, quello che ha suonato su Flowers of Romance. Aspetta, perché ora mi prendi mi prendi in contropiede. Non mi sovviene neanche a me. Comunque è uno importante, che poi è suonato anche con i Killing Joke e un sacco di altre gente. Tra l'altro. Comunque, per dire il perché dei PIL, io avevo un'infarinatura di sonorità post-punk sempre grazie a mio fratello, che era, benché non lo fosse in termini visivi perché non aveva l'eyeliner, eccetera, però era un darchettone, aveva, io mi ricordo, nella sua camera c'erano dei poster attaccati altissimi di Robert Smith, dei Joy Division e di Siouxsie, altissimi, non so perché li tenesse in cima, quasi vicino al soffitto. Perché più in alto di lì non poteva andare, cioè, era il posto più in alto dove li poteva mettere. Esatto. I numi tutelari, via. I numi tutelari. Quindi io da quando ero bambino, accanto ai successi pop del momento, poi mi beccavo sti mix in cassetta dove c'era The Hanging Garden, roba pesissima, sì. Joy Division, cioè sono proprio dei suoni che io ho in testa da quando ero, non ti dico in fasce, ma insomma. E passata la sbornia più punk hardcore metal adolescenziale, quando io ho dovuto un attimo capire dove andare a parare, ho ripreso in mano quel filone lì e mi ricordo che il primo disco dei Peel, First Issue, fu proprio un, il Metal Box, prima di Metal Box, prima di Metal Box. Lo andai scientemente a comprare in quel negozio che c'era in Piazza San Marco di dischi che non so in Piazza, Piazza San Marco per me era un po' comunque fuori, chiuso sì, ormai sì. Chiuso da tempo, e andai a comprare sto CD di First Issue, e quando lo misi nello stereo e sentì il pezzo di apertura che è Team, che ora è anche il pezzo che andremo a sentire di questo live, cioè sono rimasto abbastanza annichilito, perché benché fossi abituato al metal, che è una musica comunque cattiva, certo, abrasiva, qui c'era un livello di abrasività completamente diverso, un suono avanguardista totalmente cacofonico, appunto tu hai questo basso su frequenze dub che era completamente diverso dal basso alla Lemmy a cui ero, certo, abituato io, enorme, e una chitarra completamente che andava per la tangente in maniera noise, lui che invece di urlare tipo cane rabbioso fa questa specie di nenia da un muezzin, era un suono che per me era straniante, inedito, sì, e da lì insomma è stata una, ci ho messo anche, non sono i dischi post punk per me, io non li ho mai apprezzati al primo ascolto, ci ho sempre messo un po', però poi sono i dischi che ti rimangono di più. Ma infatti i dischi, quelli che poi appunto proprio per questo che dicevi, che ti rimangono di più, non sono quelli che ti arrivano alla fine a presa rapida, ci sono tantissimi dischi, tantissimi album, tantissimi lavori che crescono ascolto dopo ascolto. Magari il primo impatto è una cosa a cui, cioè, talmente straniante, io ho presente tantissimi dischi che le prime volte che li ho sentiti erano talmente fuori dai miei canoni, talmente fuori dai miei standard, che non riusciva ad arrivare alla fine. Sì, sì, certo. Ma però poi ti rimaneva qualcosa e dicevi, aspetta, fammelo riascoltare. Magari la volta dopo riuscivi a apprezzare qualcosa che non avevi sentito nel primo ascolto, o magari riuscivi ad arrivare alla fine quando non c'eri arrivato la prima volta, e ogni ascolto che facevi poi ti aggiungeva qualcosa di più, fino a poi perderti e innamorarti perdutamente degli infiniti dettagli che però inizialmente ti danno quell'effetto straniante, perché sono cose, almeno per quanto mi riguarda, magari non era abituato, erano talmente stranianti o talmente diverse dagli ascolti avuti fino allora, che dicevi, no, aspetta, qui dove stiamo andando? Dove stiamo andando a parare? E secondo me, con l'andamento della musica di oggi, questa fruizione si è totalmente persa. Cioè, specialmente in un ambito, ora facevamo l'esempio più prettamente pop, è quello che mi viene più in mente in questo momento, all'inizio, cioè i dischi che ci siamo sentiti all'inizio, Mia Martini, Gianna Nannini e Madonna, comunque avevano un dettaglio, una grana sonora, dei dettagli che erano curatissimi. Adesso si cura soprattutto l'immediatezza, e spesso e volentieri l'immediatezza, secondo me, è completamente a sgravio della longevità. Adesso ti faccio una postilla di un brano. Perché magari da vecchio. Ti piace istantaneamente, te la fanno ascoltare un sacco di volte, però nel giro di una stagione, diciamo il classico esempio di un'estate, poi non ne fuoi già più e non lo riascolterai mai più. Ma non so se tu, la mia osservazione da vecchio è anche la seguente. Anche questa era un'osservazione da vecchio. Sì, vabbè, d'altronde possiamo cominciare a... No, è che io quando ero adolescente i dischi li compravo in questo modo, andavo in un negozio... Te li ascoltavi. Te li ascoltavi lì per lì, però c'era sempre il commesso che ti diceva, vabbè, dai, allora lo prendi, non è che potevi ascoltare tu. Quindi tu cercavi di cogliere in quei pochissimi secondi che ti venivano permessi di ascolto se il disco poteva avere delle potenzialità. Esatto. Dopodiché te lo portavi a casa, se appunto era un disco come quello dei Public Image Limited... A me personalmente non piaceva lì per lì e dicevo cazzo, ma ho preso un pacco. Però poi, visto che l'avevi comprato, te lo ascoltavi perché ci avevi investito qualcosa. Però anche se era respingente lì per lì, dicevi beh, proviamo ad ascoltarlo. Questa cosa è molto cambiata da quando c'è la possibilità di scaricare ora lo streaming. Da quando la musica è diventata liquida, come si suol dire. Io negli anni d'oro del scaricamento selvaggio ho accumulato su hard disk una serie di dischi che non ho mai ascoltato. Sì, anch'io uguale. Per cui alla fine preferivo quel sistema lì. Però lì è perché c'è stato quel momento in cui, cioè, da appassionato di musica avevi... tutta a disposizione ed era la prima volta. I limiti sono una cosa meravigliosa ed era incredibile in tutti i campi, in realtà. Infatti considero quel mio periodo lo chiamo dello scaricamento compulsivo. Infatti mi ero scaricato talmente tanta musica, talmente tante discografie complete di artisti che poi andando a rivedere appunto negli hard disk dove conservo tutta questa musica, tantissimi non li ho neanche ascoltati poi, oppure li ho cancellati. Me li sono ascoltati con tantissimi anni dopo, perché era proprio una almeno per quanto mi riguarda una cosa compulsiva, perché era come aver aperto una caverna e aver trovato un tesoro infinito e non sapere come spenderlo. Dove mettere le mani, perché era talmente tanto e sembrava appunto quasi infinito che volevi tutto. Certo. Cioè, io lasciavo il computer le notti a scaricare. Sì, 24 ore su 24, e quando finivano i file ne mettevo degli altri perché c'era tutto. È così. E invece, appunto, alla fine i dischi che mi sono rimasti sono quelli che sono, di cui sono entrato in possesso in questo modo. Cioè, che quindi ci hai messo di più ad apprezzarli, ma poi hai perseverato. Ti sono rimasti dopo dentro. Io non perseveravo più in quel modo. No, neanche io poi ho continuato poi con quella perseveranza, in effetti. Comunque, per dire due parole su questo particolare, non sul gruppo, ma su proprio questo disco in particolare, è stato il regalo di un mio caro amico, che si chiama Gabriele, con cui ci siamo persi di vista per molti anni, almeno dieci anni. Quando poi per varie, diciamo, un amico dell'adolescenza, dello zoccolo duro, di quelle amicizie che ti rimangono del tutta la vita, storico. Persi per tanti anni, e poi quando ci siamo rincontrati per una serie di fortuite coincidenze, io mi ricordo erano due anni fa, mi sembra, sì, era il mio compleanno di due anni fa, gli dissi, dai, vieni, facciamo una cena per il mio compleanno, vieni anche tu. Caramba, che sorpresa, lui è arrivato, tutti, no, non ci posso credere. E lui è stato molto carino perché mi ha regalato per il compleanno questo disco dicendomi, io mi ricordo che tu eri un grande appassionato di questo tipo di suoni, volevo prenderti un disco che pensavo tu non avessi, e quindi ti ho preso questo live che è Paris au Printemps, Paris a primavera, che è il live della formazione, l'ultimo disco della formazione originale dei Peel, con appunto Jah Wobble e Keith Levine. Che è interessante perché i Peel sono un gruppo, come tanti gruppi post-punk, in cui le potenzialità si notano anche per come usano lo studio come uno strumento. Assolutamente. Quindi utilizzano poi tutte le tecniche appunto del dub, su Metal Box c'è tutti questi cambi di mix. E qui invece è un live, quindi li vedi è impresa loro, diretta. Nella loro invece dimensione puramente strumentale. Quindi è una maniera diversa di sentirli, mettiamola così. Di fruire del suono dei Peel. E questa è sempre Basement Records, Radio Wombat, dove se no. Now I understand. wish I could die. I will survive. Che pezzone, ce lo siamo quasi descritto tutto nel fuori onda, ce lo siamo abbastanza raccontato. E qui sull'altro piatto c'è un salto carpiato triplo, direi, perché dal post-punk dei Public Image Limited, sull'altro deck del giradischi vedo qua già piazzato un grandissimo della canzone autorale francese dei grandi, appunto, dei grandi cantautori francesi della fine della anche seconda se lui metà. È belga, però effettivamente è il triumvirato insieme a Ferré e a Brassens della canzone francese. Era belga, ma francofono, quindi solitamente associato appunto al cantautorato francese di metà e fine anni 70, che poi magari non tutti sanno che è anche tantissimo influenzato il cantautorato impegnato italiano. Il primo nome che mi viene in mente è De André, certo, che è stato forse uno dei... un grandissimo, e non ha mai nascosto le sue influenze, il suo riconoscimento verso il triumvirato dei grandi cantautori francesi. E allora spiegami un po', anche se penso di saperlo, come mai hai scelto... Questo disco è l'occasione per parlare di un'altra persona, di cui abbiamo già parlato nel fuori onda, probabilmente, come dire, si sarà sentito durante Bello Impossibile, che parlavamo di lui. di un amico che abbiamo scoperto dopo entrambi di conoscere. Di conoscere. Che è il mio amico Federico, è il tuo amico Federico. Il nostro amico Federico, che salutiamo assolutamente. Se mai ci ascolterà. No, no, glielo imporremo ovviamente. Mandiamo il podcast. Nulla, c'è stato, vabbè, lui è un mio carissimo amico fin dai tempi dell'adolescenza, quindi sono quegli amici che davvero restano tutta la vita. E, c'è stato un periodo curioso della nostra amicizia, di cui chiacchieravamo anche qualche tempo fa, quando lui si era trasferito prima in Francia, poi a un certo punto era... in Nord Africa, che lavorava per Al Jazeera, in Tunisia, esatto. In quel periodo lì io avevamo installato una corrispondenza. Io gli mandavo appunto tutti i dischi post-punk che erano la mia fissa, ero appena entrato in quella fase lì. Quindi gli mandavo i dischi dei Gang of Four, appunto Joy Division, Cure, Talking Heads, quello che vuoi, accompagnati da delle lunghe lettere in cui gli spiegavo i dischi, tant'è che delle lettere scritte, tra l'altro ne ho ritrovata una roba, cioè veramente ossessivo compulsiva, scritte piccolissime, fittissime, tant'è che lui dopo, cioè, a seguito di questi scambi mi disse: ma dovresti cominciare a scrivere di musica. Io da lì effettivamente ho iniziato a scrivere di musica, e lui in cambio mi mandava appunto sia dischi della chanson francese, sia anche musica di tutto il Maghreb, tipo i Gnawa Diffusion, insomma un sacco di... Rai. Esatto. E niente, è stato cioè, che per me... anche lì è un universo meraviglioso, sì. La musica nordafricana esatto, è stupenda. Apre un'altra parentesi esatto. Enorme. Però insomma, per me è stato un momento di arricchimento vero, perché... appunto De André lo conoscevo, ed effettivamente se tu ascolti De André e poi ascolti Brassens o ascolti Brel, le influenze le noti immediatamente, però io non conoscevo niente di chanson francese, e quindi insomma è stato istruttivo, e in particolare dei tre Brel è stato quello che su di me ha avuto più presa. Mi piace veramente veramente moltissimo. E niente, quindi poi quando in uno di quei mercatini ho trovato questo disco, me lo sono accaparrato subito. È un disco bellissimo, è il suo ultimo disco, si chiama Solo Brel, è un disco del 77, lui sarebbe morto, pensa, l'anno dopo, sì, di cancro, e si era già in questo momento ritirato a vivere nella Polinesia francese. Tra l'altro, se tu guardi la foto di copertina, Brel quando è morto c'aveva 49 anni e sembra un settantenne. Ah, proprio... Cioè, proprio lo vedi consumato dal male. E niente, in particolare la canzone che andiamo a ascoltare si chiama Orly, come appunto l'aeroporto di Parigi. Di Parigi. Perché tratta di una scena che avviene proprio all'aeroporto di Orly. Brel è molto noto per essere un fustigatore dei costumi borghesi, anche se era lui stesso un borghese. Invece questo è un pezzo, non so, che parla di amore, potremmo dire. È l'immagine di due amanti che si dicono addio all'aeroporto, perché probabilmente uno dei due parte per andare chissà dove. Ed è... ora il mio francese è un po' arrugginito, ma insomma inizia in maniera bellissima, dice... ils sont plus de 2000, je ne vois que deux. Sono più di 2000 le persone dell'aeroporto, io non ne vedo che due. Cioè, lui, l'autore, si fissa, il suo sguardo si fissa su queste due persone e sul loro abbraccio straziante prima della separazione. La partenza. Tra l'altro, cioè, mi viene in mente adesso che il refrain di questa canzone è La vie ne fait pas de cadeaux, la vita non fa regali. E mi viene da ridere perché era questo disco che mi aveva spedito Federico, il CD di Brel, io me l'ero portato in vacanza a Parigi, dove ero andato insieme a due mie care amiche, Amanda e Marta, e glielo propinavo costantemente, quindi La vie ne fait pas de cadeaux era diventato un po' il nostro No, il motto. Sì, il nostro motto. Ogni tanto qualcuno la tirava fuori. Sì, con enfasi diceva questa frase qui. Niente, quindi un sacco di ricordi. Bellissimo disco, andiamocelo a sentire. Andiamocelo ad ascoltare. E questo è Jacques Brel con la sua Orly. Sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Ciao Fede! Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent. Il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste Orly le dimanche, avec ou sans Béco. Et maintenant ils pleurent, je veux dire tous les deux, tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout encastrés qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui brillent, infiniment lentement, ces deux corps se séparent. Et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux, et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu, ils bavent quelques mots, agitent une vague main. Et brusquement il fuit sans se retourner. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste Orly le dimanche, avec ou sans Béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. Et elle reste là, cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser. Voilà qu'elle se retourne, et se retourne encore. Ses bras vont jusqu'à terre, ça y est, elle a 1000 ans. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Tourne sur elle-même, et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit, revoilà l'inutile, elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit. E questo era Jacques Brel con Orly. Cantautorato francese di prima qualità, direi. Eh sì, no, molto bello. Si diceva appunto del, uno quando pensa al cantautore pensa al tipo con la chitarrina acustica, invece qui ci sono degli arrangiamenti orchestrali importanti che insomma danno, sicuramente arricchiscono sì, poi sì. Quello che è il brano, che insomma è forte a livello di musica e di parole, ma c'è anche tutto poi un lavoro di orchestrazione dietro. Sì, assolutamente. Molto legato appunto all'orchestrazione classica. E facciamo un salto intercontinentale per il prossimo disco. Passiamo dal francese al portoghese, però portoghese brasiliano. Infatti voliamo in Brasile e incontriamo uno degli autori, uno dei giganti del cosiddetto movimento tropicalista. Caetano Veloso, ovvero quelli che hanno rivoluzionato la musica brasiliana e hanno creato poi l'esplosione della bossa nova, e insieme a Gilberto Gil, a Tom Zé e a tutto il resto dei grandi autori brasiliani di quella fine degli anni 70, a cavallo tra la fine degli anni 60 e tutti gli anni 70, direi. E qui appunto abbiamo uno dei grandi maestri, Caetano Veloso, e raccontaci un po' come mai la scelta di questo vinile. La musica brasiliana è entrata nella mia vita attraverso un altro grande amico, sempre del periodo dell'adolescenza, che è anche un grande amico di Fede, tra l'altro, che si chiama Gabor. E lui è... Che ho conosciuto, tra l'altro. Ah, l'hai conosciuto, Gabor, ok. Gabor Senchereschi de Zagon. Origini, chiaramente, ungheresi. Però lui ha sempre avuto un rapporto molto stretto col Brasile, perché suo padre viveva lì. E tant'è che poi alla fine ci ha finito a fare, in qualità di console italiano, è andato a vivere in Brasile, si è sposato con una brasiliana e ora dimorano a Bruxelles, tanto per fare il trade union con il disco. Vabbè. Comunque, lui è quello che dall'adolescenza mi ha in un certo senso introdotto a non solo la musica, ma in generale alla cultura brasiliana. Lui, anche lui ci aveva vissuto un anno tra le medie e il liceo, e ci ha vissuto di nuovo un altro anno tra il liceo e l'università. E poi, tra l'altro, questa cosa ti è rimasto molto nei tuoi lavori con Ursuoni. Ha avuto un impatto abbastanza forte. E lui mi ha sempre parlato con entusiasmo della società brasiliana e dei rapporti anche umani che esistono in Brasile, che poi ho avuto modo di toccare con mano quando ci sono andato, insieme a lui, peraltro, la prima volta. Ed è vero, cioè lui era, mi ricordo che era in un certo senso quasi scontento e insoddisfatto di quelli che erano poi le relazioni fra le persone in Italia, perché benché noi siamo in teoria latini e quindi molto calorosi, rispetto ai brasiliani siamo quasi scandinavi in confronto ai brasiliani, forse. Sì, cioè ti faccio un esempio che sembra terra, ma non lo è. Quello dei rapporti, nel senso proprio di rapporti sessuali, nel senso la naturalezza con cui questo avviene in Brasile è incredibile, in senso positivo, perché non c'è sovrastruttura, cioè nel senso se ci si piace, anche voglio dire la prima volta che ci si incontra, se ci si piace e ci scatta qualcosa, c'è chimica, succede senza troppe paranoie e sovrastrutture. Non c'è tutte quelle sovrastrutture religiose che i secoli qui ti hanno portato addosso. Lo vedi chiaramente chiarissimamente in quel contesto, ma comunque anche nei rapporti di amicizia, cioè si stringono rapporti molto facilmente, molto velocemente. Quindi questa è una caratteristica che lui mi decantava sempre, ed effettivamente quando poi ho avuto modo di andarci l'ho verificato, tutta questa rilassatezza, espansività, insomma bei rapporti umani. Poi io ho anche conosciuto una donna brasiliana, sono stato insieme a una donna brasiliana per 5 anni della mia vita, per cui lì ho ulteriormente approfondito. E sono stato in Brasile diverse volte, ho imparato il portoghese e ho potuto apprezzare anche di più. Certo, una volta imparando la lingua. Io mi ricordo che, come dire, a seguito diciamo le istruzioni di Gabor, il disco che in realtà mi ha traghettato verso quelle sonorità è stato un disco che uscì nel 2004-2005, che si chiamava Now Wave, che è la traduzione di No Wave, che era una raccolta della Man Recording, un'etichetta che di base a Berlino, che ora fa praticamente baile funk e basta. Mm-hmm. Che era una raccolta di post-punk, new wave brasiliana. E chiaramente io ero in quel periodo lì, per cui è stato un trade union che da quelle che erano le sonorità a cui ero abituato io, a cui mi stavo interessando in quel momento, mi hanno portato però da un'altra parte. Da lì ho scoperto Tom Zé, che era quello più strano di tutta la banda. Assolutamente. Più simile poi a quella musica forse, di avanguardia. Forse anche il meno celebrato di tutti i grandi tropicalisti. Quantomeno da anni recenti è stato molto rivalutato. Però all'epoca non se lo sono inculato molto. Come chi è più avanti del suo tempo, gli capitano spesso queste cose, che vengano rivalutati solo con gli anni successivi, perché probabilmente sei più avanti dei tempi o hai una visione, nonostante stiamo parlando di un movimento che era già di rottura, appunto il tropicalismo con la tradizione brasiliana. Lui era di rottura all'interno della rottura. Esatto, era addirittura un eretico all'interno del panorama tropicalista, cioè era già oltre addirittura il tropicalismo. E niente, questo disco io lo comprai proprio in Brasile, la prima volta che andavo lì. È un disco che non conoscevo assolutamente. Io la prima volta che andai in Brasile feci incetta di dischi. Ci credo. In maniera, diciamo, un po' intuitiva. Un po' chiesi, un po' mi guardai delle classifiche, sai, i migliori 100 dischi brasiliani, cose così, e tutti belli, devo dire, in particolare Tranza di Caetano Veloso, che tanto per dire, Tranza vuol dire scopata, poi volgarmente detto. Un titolo che potrebbe avere un significato anche qui più ampio. Perché? Perché è un disco che lui ha registrato a Londra quando era in esilio, perché chiaramente con il tropicalismo succedeva negli anni della dittatura. Della dittatura militare, e quindi non erano assolutamente ben visti. Non erano ben visti, e tutti, bene o male, furono costretti a un certo punto a emigrare. E anche perché non gli sarebbe convenuto rimanere, insomma. No, furono imprigionati. Esatto, anche perché la biografia, tra l'altro, di Caetano Veloso non è che si scherzasse più di tanto, ecco. Se t'andava bene finivi in galera, ma sì. Poteva finire anche molto molto peggio, ecco. No, mi viene in mente questo libro che si chiama Verità Tropicale, edito da Feltrinelli, che è la sua autobiografia, perché poi l'ha proprio scritta lui, che è un libro bellissimo, io consiglio a tutti, perché lui è un uomo di una cultura sconfinata, e la sua biografia è un viaggio in quegli anni del Brasile, ma con rimandi a tantissime altre cose. Per esempio conosce il cinema italiano a menadito, Caetano Veloso, che non è scontato, perché noi invece non conosciamo il cinema brasiliano allo stesso modo. Comunque, disco che lui registra in esilio, dopo prima va in Portogallo, però anche in Portogallo c'era la dittatura di Salazar, per cui esatto. Se ne va e va a Londra. E a Londra registra questo disco con musicisti di lì, ed è un disco che è molto... è un vero disco crossover, perché lui porta tutta la sua eredità e la mischia con il rock che c'era in quel momento in Inghilterra, e anche con il reggae, che in quel momento in Inghilterra andava tantissimo, per Bob Marley, certo. Un disco del 72, questo, se non sbaglio. Soprattutto per via della diaspora giamaicana, ovviamente giamaicana e caraibica verso l'Inghilterra, che hanno portato esatto. Tutti questi suoni tropicali e caraibici nella fredda terra d'Albione. Esatto. Quindi è un disco dove c'è una vera commistione di suoni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è quello forse più puramente brasiliano, nel senso che risente molto della musica tradizionale che si fa, per esempio, durante le cerimonie di Candomblé o durante la capoeira, una musica molto percussiva, molto da trance. E che probabilmente... Dal titolo non l'avrei detto. Invece sì, probabilmente perché appunto quando poi uno è in esilio si attacca ancora più fortemente, certo, alle radici, alle tradizioni. E allora andiamocelo ad ascoltare questo lungo pezzo di Caetano Veloso. Questa è Triste Bahia di Caetano Veloso, appunto, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Triste Bahia, ó, quando é semelhante. Triste Bahia, ó, quando é semelhante. Estás, estou, do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tua me empenhado. Rica te vejo eu já, tua me abundante. Triste Bahia, ó, quão dessemelhante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim vem me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Ó, quão dessemelhante, triste. Pastinha já foi à África. Pastinha já foi à África. Pra mostrar a capoeira do Brasil. Eu já vivo tão cansado de viver aqui na terra. Minha mãe, eu vou pra lua. Eu mais a minha mulher. Vamos fazer um ranchinho todo feito de sapé. Minha mãe, eu vou pra lua. E seja o que Deus quiser.

Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Trago no peito a estrela do norte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Trago no peito a estrela do norte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca. Bandeira branca. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Trago no peito a estrela do norte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Trago no peito a estrela do norte. Trago no peito a estrela do norte. Bandeira branca. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca enfiada em pau forte. Bandeira branca. Bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira. Meraviglioso, questo era Caetano Veloso con Triste Bahia, brano bellissimo, brano stupendo, ma vedo già pronto qua sull'altro piatto, stiamo aprendo una nuova porta, vedo che siamo passati finalmente anche ai progetti personali. Allora, no, giustamente tu dicevi la musica brasiliana poi ha avuto un bel impatto su quello che tu fai con Ursuoni, è vero, nel senso... Penso che ti abbia influenzato parecchio, insomma, no? Sì, sì, sì. Ursuoni è un'etichetta che si è sempre proposta quando è nata di diciamo, lavorare all'insegna di questa commistione tra il punk in senso lato, come appunto attitudine e propensione verso una certa abrasività del suono, e quella che un tempo veniva definita... in maniera forse non molto politically correct, world music, perché, cioè, cosa vuol dire world music? Sembra che esiste, se no, la musica nostra e poi tutto il resto, sì, music. È un po'... Però, insomma, un'attenzione alle sonorità di altri luoghi del mondo che non sono le più classiche anglo-americane, che sono quelle, esatto, insomma, hanno... più incentrate, diciamo, sul versante occidentale. Diciamo che world music è un po' come tutte le etichette, alle sue contraddizioni, appunto, come hai appena detto, sembra quasi che la musica dovesse essere incentrata sulla visione occidentale del termine, e invece, appunto, questo genere si poneva come basi di esplorare appunto l'universo sonoro al di là della classica visione occidentale della musica. Esatto. E poi, vabbè, ha avuto un impatto anche sui miei personali progetti musicali, nel senso che il gruppo dove al momento suono, che sono i Caveiras, sono un gruppo a tema brasiliano, mettiamola così. Io canto in portoghese e la musica ha una forte valenza ritmica, ed è appunto, sono tutte poi influenze prese direttamente dalla musica brasiliana e dalla cultura brasiliana. Musica che diciamo spazia a 360 gradi su quella che è la tavolozza dei colori della musica brasiliana, perché noi, diciamo, ci ispiriamo sia alla musica tradizionale, quella appunto come potrebbe essere stato questo brano di Veloso, ma sia anche a, a generi che vengono considerati dagli stessi brasiliani della classe media dei generi bassi, tipo appunto il baile funk, che è questa musica che si è sviluppata all'interno delle favelas, cioè che non saprei ora quale potrebbe essere l'equivalente, però è un genere... È il reggaeton, per dire. L'equivalente. Questo è il beat del reggaeton, il beat del baile funk è un altro, però insomma è quel tipo di roba lì, che dal mio personale punto di vista ha un interesse anche in termini musicali, oltre che sociologici, tant'è che il pezzo che ora ci andremo ad ascoltare, che è, come ti dicevo, formalmente una cover, come tutti i pezzi di questo split, è formalmente una cover, nel senso che riprende il testo di una canzone scritta, peraltro, da Caetano Veloso, per Gal Costa, che è un'altra cantante brasiliana, che si chiama Divino Maraviglioso, un testo che, diciamo, affronta un po' l'oscurità della dittatura senza però citarla mai esplicitamente, perché non si poteva fare, quindi è un bel testo, cioè, a livello di metafore, insomma, è molto bello. Mi ricorda molto i brani blues e jazz della prima parte del Novecento, in cui dicevano non esplicitamente, però dicevano delle cose che non si potevano dire, e quindi usavano tutti i doppi sensi per far capire in realtà quello che volessero dire. Cioè era un uso comune, ecco, anche da tante altre parti, per dire cose che in realtà non si sarebbero potute dire, o a livello politico, o a livello proprio... ai giorni d'oggi diremmo di temi espliciti, specialmente appunto nel blues e nel jazz della prima metà del Novecento, temi che potevano riguardare appunto la segregazione, la droga, il sesso, che erano comunque... facevano parte della vita comune, ma per l'American Way of Life non era per farsi pubblicare un disco, insomma, non erano temi che potevi trattare, allora usavano questi escamotage appunto per portare la loro visione su certi temi al grande pubblico. No, un po' mi ha ricordato questa cosa. Questo brano dice: attenzione a girare l'angolo, attenzione alla finestra in alto, attenzione al sangue per terra, però rimanendo sempre sul vago. E poi il ritornello dice: è preciso stare attento e forte, non temo tempo per temere a morci. Bisogna rimanere attenti e forti, non abbiamo tempo di aver paura della morte. Quindi il testo è questo, che è un pezzo molto bello che io vi consiglio di andarvi a sentire nella versione di Gal Costa, Divino Maraviglioso. Però, diciamo, riprende semplicemente il testo, perché poi la musica in realtà è completamente... diciamo, riarrangiata. Non è la musica del pezzo... E anzi si ispira, come ti dicevo, a una canzone che l'ultima volta che sono stato in Brasile nel 2017 sentivo sulla spiaggia, cioè, nel senso, mi ricordo che eravamo in questo baracchino, cioè eravamo su questa spiaggia e lontano da un baracchino veniva questo pezzo baile funk, perché poi baile punk sarebbe quello. questo pezzo baile funk che io non riuscivo a distinguere, cioè non saprei dirti che pezzo era, però mi era rimasto in testa questo beat e da lì... Poi è nato... quel beat che fa... E da lì poi l'abbiamo rielaborato e abbiamo creato questo. Due parole sul disco in cui è inserito... che è uno questo, split, appunto. Questo è il, stavi primo, dicendo. È il primo e per ora unico vinile che è realizzato da Urzuoni, che normalmente stampa CD. È un, appunto, il motivo per cui si è verificata un'uscita in vinile è che abbiamo avuto occasione di fare una coproduzione con una serie di altre etichette indipendenti, che ora dopo ti citerò tutte, però devo tirare fuori il foglietto perché sennò alcune le salto. Ed è appunto uno split fra i Caveiras e un altro gruppo che, come i Caveiras, all'insaputa l'uno dell'altro, tra l'altro, fa una commissione di punk e sonorità brasiliane. Loro si chiamano Arabia Saudade e sono di base a Milano, anche se poi sono, come dire, il gruppo del mio amico pugliese, barese, anzi proprio barese, Giuseppe Laricchia, della Lepers Productions, che è un'altra etichetta che, insomma, mastica sonorità non proprio digeribili. E niente, avevamo... Mi piace questa definizione. Sì, è stato bello perché abbiamo scoperto incredibilmente che in contemporanea avevamo deciso di... ognuno di noi ha deciso di dare la propria interpretazione della musica brasiliana. Oh. E avevamo pronto, o meglio, loro avevano pronto un disco, perché sul lato loro sono 9 pezzi, è un disco propriamente detto. Noi no, però abbiamo tirato, siccome avevamo voglia di fare questo di fare con loro, abbiamo tirato fuori 3 pezzi, che come poi minutaggio complessivo sono l'equivalente dei loro 9, molto dilatati. E così abbiamo avuto l'occasione di stampare uno split, che tra l'altro è una cosa che mi ha sempre affascinato. Io sono un disco che mi piace molto è lo split Fate Void della Discord, e quindi si ispira un po', diciamo a quello, e niente, ce l'abbiamo fatta, abbiamo finalmente stampato il nostro primo vinile per noi, non per la Lepers, e sono molto contento di esserci dentro. Ci vedo. Ah, ho cambiato il titolo di Divino Maraviglioso. In originale è scritto semplicemente Divino Maraviglioso, e io ci ho messo uno slash fra Divino Maraviglioso per ricordare Refuse Resist dei Sepultura, che sono stati in realtà il vero primo impatto con la musica brasiliana. Con qualcosa di brasiliano, no. Sono stati loro. Max Cavalera. Bene, allora adesso ci andremo ad ascoltare sto divino meraviglioso dei Caveiras, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Oh, E questi erano i Caveiras, con appunto questo divino meraviglioso di cover di Caetano Veloso per questo split con Arabia Saudade, edito su Ursuoni appunto. E mentre sono rimasto un po' indietro perché eravamo qua a chiacchiera, mentre libero il posto sul piatto. Allora. Beh, questo prossimo disco, sicuramente intanto è il lato B. Questo prossimo disco è una tua esplicita richiesta. Ah, questa era una mia personale richiesta, vedo, sì. Sì, ora spero di beccarla perché... non ci sono scritte le canzoni lì sul... Esatto. Allora, io volevo mettere questa, Revelation Candela. Lato A o lato B? Lato B, dovremmo fare una prova. Stiamo contando le tracce, perché come spesso succede... È capitata anche questa cosa in diversi vinili. Ci sono svariati gruppi che nei centrini. Contalo al contrario. Allora, è la terz'ultima del lato B. Perfetto. Se la becchi per forza. No, dicevamo una tua esplicita richiesta. Questo disco sono i Combo Cimbita, che sono un gruppo. Che con Ursoni abbiamo invitato a suonare qui a Firenze. Esatto, e io ero presente a quel concerto e rimasi folgorato dal suono e dall'impatto scenico dei Combo Cimbita, quindi era stata proprio una mia esplicita richiesta di far arrivare appunto un loro lavoro, perché... Mi sembrava assolutamente il caso, avendo qui come ospite Federico, se ci fossero dei malaugurati che ancora non conoscono i Combo Cimbita, mi sembrava un'occasione perfetta in questa trasmissione di farli conoscere anche ad un pubblico più vasto poi relativamente, perché poi ho visto che comunque vanno abbastanza forte, stanno andando forte, ho visto hanno fatto anche un bel tour internazionale. Sì. Allora, questo disco in quanto disco che io ho comprato appunto al loro concerto quando sono venuti qui, ha un valore, questo è per te, quindi, ha un valore che particolare, meraviglia. Perché il concerto dei Combo Cimbita è stato il primo che ho organizzato insieme al mio attuale partner in crime, Michele, che tra l'altro ti suggerisco di invitare una volta in trasmissione perché ha una cultura musicale sconfinata, e quindi potrebbe sicuramente fare una selezione interessante. Molto molto volentieri. Michele Aluni, già membro dei Bud Spencer Drunk Explosion, nel periodo in cui ero un membro dei Tribunal Udu, quindi diciamo in un certo senso siamo dei veterani della scena punk funk fiorentina, se così vogliamo definirla, quindi amici di lunga data anche noi. Quando diciamo io avevo cominciato a fare eventi dal vivo con Ursuoni, oltre appunto a produzioni anche a organizzare eventi, ho fatto un po' di cose da solo, concentrandomi soprattutto sull'underground italiano, sui progetti che mi sembravano interessanti a livello di underground italiano. E poi nel corso del tempo con Michele ne abbiamo parlato, lui aveva voglia di ritornare a organizzare eventi perché lui era interno all'organizzazione eventi dell'ambasciata di Marte, quando c'era l'ambasciata di Marte tempo addietro. Aveva voglia di ricominciare a fare qualcosa, quindi è entrato anche lui in organico e con lui abbiamo cominciato a concentrarci su, insomma, proposte un po' più ambiziose, invitando artisti internazionali. E i Combo Cimbita sono stati il nostro battesimo del fuoco, che grazie al rapporto che che abbiamo con un altro amico che saluto, che è Paolo Visci di Pentagon Booking, siamo appunto riusciti a fissare questa data, che è stato un battesimo del fuoco importante, perché era un lunedì, mi ricordo, era la nostra prima data internazionale insieme di lunedì, quindi era una super scommessa, perché direi una scommessa vinta, visto la quantità di gente che mi ricordo che c'era. Sì, c'è stata un'affluenza pazzesca. Per essere un lunedì. Esatto, sì, ma direi anche in generale, perché sì, comunque sì, no? C'erano davvero un sacco di gente. Il che mi ha fatto naturalmente piacere, anche perché i Combo Cimbita sono, come dire, se lo meritavano sì, tutto, perché sono bravissimi, e anche umanamente è stato un incontro bellissimo. Siamo rimasti poi insomma in contatto con loro, cioè, sono delle persone splendide, super umili, nonostante insomma abbiano di che abbiano di che vantarsi, nel senso, loro sono un gruppo, per chi non li conosce, sono un gruppo completamente composto da colombiani, però trapiantati a New York, ed escono peraltro su Anti, che è l'etichetta per cui esce anche Tom Waits al momento, che è una sussidiaria di Epitaph, etichetta punk hardcore per eccellenza, che fa la sussidiaria che fa la roba un po' più strana, quindi appunto Tom Waits o cose come loro, i Combo Cimbita, che hanno sì un substrato punk anche loro, perché ce l'hanno, però si concentrano sulla riscoperta appunto di sonorità tradizionali colombiane, quindi diciamo dalla cumbia in là. Infatti loro hanno Caterina, la cantante, suona anche la guarraccia, mi sembra si chiami, che è questo strumento che sembra una grattugia. Ah, che... sì. Ho sempre chiamato grattugia, non sapevo il nome vero dello strumento. E insomma, comunque l'hai visti in concerto, sono sì, veramente bravi. Meraviglioso. Una voce fu spaziale. Un concerto stupendo. E strumentisti bravissimi, batterista un dio, chitarrista incredibile, il bassista che è poi il Deus Ex Machina, diciamo, dietro al gruppo, anche lui che ha tutta un'interessantissima strumentazione elettronica, è quello che si occupa un po' anche di questo aspetto qui. Quindi ha un suono psichedelico moderno, molto ritmato, ma che si aggancia anche nel loro caso alla tradizione colombiana. Secondo me è un mix interessante, e quindi sentiamoceli. Andiamoceli ad ascoltare. Il pezzo che abbiamo scelto? Revelación Candela. E questi sono i Combo Cimbita, sempre qui a Basement Records, Radio Wombat. Yeah. E questo era l'ultimo brano della selezione di stasera, portataci qui a Basement Records da Federico. Questo, chiusura con il botto, con questa richiesta espressamente fatta da parte mia a Federico. E quindi a questo punto non ci rimane che passare ai saluti e a lasciarvi a un buon proseguimento di sabato sera in generale, ma sempre qui anche sulle frequenze di Radio Wombat, che vi ricordo continuerà con la ricca programmazione della domenica a partire dalle 10 la mattina con Container, poi appunto con il susseguirsi di tutti gli appuntamenti domenicali con appunto La Fuga del Gatto, con Poi You Eat, con L'Arte del Vizio, con le repliche di Uru, e insomma un appuntamento molto ricco, che tra l'altro ora, non avendo il palinsesto aggiornato sott'occhio, sicuramente mi starò scordando qualcosa, però andate a controllare, perché la domenica è uno dei giorni più fitti della programmazione di Radio Wombat. E io non posso far altro che ringraziare tantissimo Federico per essere stato qui ospite da noi questa sera. Grazie a te, è stato un piacere. E lo rinvito ufficialmente per una prossima volta, per quando gli verrà voglia. Le porte, come ho detto, sono sempre aperte qui a Radio Wombat. E allora un caro saluto a tutti, un buon fine settimana, e ci aggiorneremo e ci risentiremo sabato prossimo per, in questo caso, una nuova puntata di, stavolta davvero, Tonight Alive. E un buon fine settimana a tutti. Viva Radio Wombat! Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore.